della lupa e del primo. Quello del grembiulino che è lì che se la gioca col figlio della lupa potrebbe essere il primo o il secondo. Sul grembiulino tra l'altro c'è un bel ragionamento che torna molto attuale, perché non è vero che annullasse davvero il censo e il ceto, perché poi bastava un piccolo colletto inamidato meglio, pulito meglio, per far capire che sotto c'era un ricco e non un poveraccio. E per esempio per me è stata una lezione interessante quella pagina, perché a Trento c'è un enorme dibattito sulla reintroduzione, intesa come possibilità data ai dirigenti scolastici, della divisa. Non sapremo se poi i dirigenti scolastici la reintrodurranno, però uno dei dibattiti è quello di dire: così si elimina ogni classe sociale, così si torna alla pulizia, perché poi i grembiulini servivano anche a permetterci di tornare a casa più o meno immacolati. Però Ettore ci fa capire anche con un colpo di pennello, ed ecco di nuovo l'autoritratto, che a volte basta un colletto invece che emerge dal grembiule per far capire che siamo di fronte non a un povero, a un ricco. Allora dicevo, grembiule e complezzino di figlio della lupa se la giocano. Poi c'è il marinaretto, ed è quasi una provocazione rispetto al titolo, perché è evidente che questa è la risposta frangipaniana a Suni Agnelli e al suo Vestivamo la marinara. Anche se Vestivamo la marinara non era solo la storia di una grande famiglia, era anche la storia di un'Italia che è passata attraverso quella grande famiglia, tra l'altro con una serie di cose inedite che molti di noi hanno scoperto per la prima volta sull'infanzia degli Agnelli, che non era poi così felice come avremmo immaginato. Però anche lui ha vestito la marinara, ha vestito la marinara in alcune occasioni ufficiali, ma poi lo vedrete, per cui non voglio rovinarvi la sorpresa. Poi c'è il chierichetto, per cui vestivamo la chierichetto, e poi sono arrivate le chierichette, poi la chiesa si è aperta, il processo di Francesco è ancora in corso, chissà se si ispirerà anche alle prime gesta di Frangipane. Poi vestivamo la Boy Scout, un'altra stagione importante, è una stagione in cui poi lui si paragona al cowboy, scritto esattamente come ve lo dico, no? Non esisteva la dizione americana inglese, era un cowboy e basta. Poi li abbiamo visti sulle passeggiate del Tarvere i cowboy, ma questa è un'altra delle storie che Ettore racconta sul giornale. Poi io aggiungo il look del giornalista nella gabbia dei leoni, laddove non serve dire che lui sarà quello a destra rispetto a, come dire, agli esperti del circo Orfei, e rivederlo con quella cuffia ci fa capire insomma che quello è il look del giornalista Ettore, un look che ha usato per molti anni. C'è anche il look del finto sciatore, che è uno dei più interessanti secondo me, perché la madre scia e lui sta accanto, ma non sapremo mai se e come sciava, perché è la madre quella che si vede in quell'immagine. Poi inevitabilmente c'è la divisa importante del trio sul palco del Cook, siamo al Circo Universitario Cittadino, vediamo che anche lì c'è una divisa con camicia a quadri, cappello tipico della stagione universitaria, spero di non sbagliarmi perché io non ho uno specchietto retrovisore. Poi c'è la divisa dell'alpino, me lo immagino Ettore che fa l'alpino, forse ve lo immaginate anche voi, l'alpino che si sposta anche in questo caso in più luoghi. E oggi invece chi ti ha vestito, Giannella o hai scelto da solo? Sempre soltanto Giannella, per cui le divise usate nell'ultimo periodo sono tutte scelte da Giannella. Sono Marco Giannella. Per cui quando uno ti dice come stai bene con quella cravatta o come sei elegante, devi dire che sei vestito da Giannella. L'ultima cosa che voglio dire a proposito dell'autoritratto è un po' un riassunto dei suoi libri, con in più una cosa, cioè c'è davvero il suo punto d'osservazione. Di solito avevamo il punto d'osservazione del ricercatore, del topo di biblioteca. Tra l'altro, Valeria, ti guardo e penso come sarebbe comodo per Ettore andare in un'unica sede e trovare più biblioteche, lui che le frequenta tutte, lui che le gira tutte, dibattito molto attuale. Però dicevo, non c'è questa volta il topo di biblioteca, questa volta appunto c'è il ritrattista che si guarda e che attraverso il suo sguardo racconta quello che ha vissuto. Certo, ritornano anche stagioni precedenti, perché alla fine c'è tutto il secolo breve e qualcosa di più dentro questo libro, perché riesce ad arrivare ai primi del Novecento. Ci racconta anche, immagino anche per voi, una serie di cose scoperte inedite sulla sua curiosa famiglia, perché mettere insieme un pezzo di Dresda e un pezzo di Catanzaro non è una cosa molto semplice, ma si capisce che in quell'epoca c'è un momento in cui si arriva, spero sempre di ricordare, al Pappagallo e ci si può anche innamorare, e una grande storia d'amore produce non solo Ettore ma un sacco di storie da raccontare. Queste due famiglie sono molto interessanti nella filigrana del libro, e spiace scoprire, e da qui io partirò, che Ettore a un certo punto dica: volevo tornare a Catanzaro, ricostruire la storia paterna, che è una storia meno fortunata della storia materna. La storia materna è una storia anche di grandi intuizioni economiche, la storia paterna è l'esatto opposto, persino divertente in alcune cose. Però vi dicevo, dice: no, ormai ho due figlie, il nome Frangipane, anche per colpa di mio fratello che è una figlia, finirà, che senso ha tornare a Catanzaro? E io dico: ha senso, perché non c'è futuro senza memoria. Torna a Catanzaro, e da lì partiamo. Di tutto ti ringrazio di una cosa fondamentale: hai letto il mio libro. Beh, io non presento mai libri che non leggo. Valerio, l'hai letto anche nei dettagli, e ti ricordi anche di... Ma l'ho letto di notte, non nei dettagli. Dunque, volevo chiedere se il mio telefono, se il mio microfono funziona. Funziona. Puoi anche alzarti e fare due scene se vuoi. Mi piace fare Lavanda Osiris. Allora io mi metto di lato e cercherò di interrompere. Anche perché vedrai quello che ci proietta, ti ho seguito nelle tue indicazioni, sono mancate alcune foto tipo quella di Frangipane che intervista il domatore dei leoni del circo Orfei, di Moira Orfei, ma le cose... Sei riuscito a documentare... A documentare tante cose. Dunque, un libro, come aveva detto Faustini in precedenza, che riassume praticamente un periodo della mia vita, ma anche della vostra vita, se siete... No, anzi, non della vostra vita, perché vedo tante signore che vi presentano, Marina, no, sei molto più giovane di me. Noi siamo quindi invece, però ti riconosci nel concetto di autoritratto? Cioè c'è un po' questo tu guardare allo specchio anziché dalla finestra, un po' narciso anche, no? Perché arriva quell'età in cui ci si guarda. Nell'autobiografia, nell'autoritratto c'è sempre molto narcisismo, naturalmente, no? E io gioco un po' sul fatto, e questo è nel cubico, quando ho parlato prima con una collega giornalista che mi chiedeva perché, per come, per quando. Io racconto il mio passato, dico io, e questa è una scusa per raccontare il passato di noi tutti, o quantomeno di quelli che c'erano in quel periodo, che è il periodo immediatamente precedente, durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale, un periodo veramente piuttosto pesante. Anche Manchetto, succedeva tutto in un pianerottolo, no? Cioè si ha un po' l'idea, al di là del pianerottolo interessante nel quale c'è il grande musicista, cioè in base, cambiando casa cambi scena, però c'è tutta Bolzano, no? Nella tua classe, credo, nella foto del liceo, cioè, si scopre che la Bolzano che conta è passata di lì. È passata di lì, ed è passata anche per il Colle, è passata anche per Nuova Ponente, e sono i posti che io ho coperto, ho vissuto, diciamo, durante la guerra, al Colle per evitare le bombe che cadevano a Bolzano, che quando sono caduti anche al Colle, mio papà ci ha trasferiti tutti a Nuova Ponente. E diceva del pianerottolo adesso Faustini, mi piace perché questa risposta si sta sviluppando un po' a sorpresa, ma anche sul pianerottolo deve essere così, se no fai anche e poi tu. Sul pianerottolo di casa, visto lo stesso pianerotto, viveva la famiglia Giulini. Avete presente il maestro Carlo Maria Giulini? Ecco, Steno Giulini, Alberto Giulini, che adesso ha 99 anni. 99 anni, che non vedo più da qualche tempo, ma ci vedevamo ancora spesso, che eravamo ancora assieme, quindi essere un po' in depressione, non voglio vedere nessuno, è una cosa che mi spiace molto. È un pianerottolo importante, appunto per la presenza di queste persone. Poi nell'edificio che abitavo io c'è un'altra persona della quale scrivo e si è scritto, non una persona, una famiglia, la famiglia Carpi, la famiglia di quei lavori. Una storia importante perché ti permette di parlare degli ebrei, di parlare del tuo pianoforte, con il quale ormai sto grande rapporto. rapporto con tuo padre se ne sarà fatto una ragione, e ti permette di raccontare anche della musica dei Carpi, cioè un nome molto importante per la musica in questa città. Non Carpi, violinista. No, è una famiglia di commercianti. Sì, però il pianoforte arriva da, non c'è quel passaggio. Sì, c'è un passaggio del pianoforte, perché io ho fatto tante cose. Mio padre mi ha detto, mi diceva quando io facevo ancora il liceo, cominciavo, anzi stavo lasciando il liceo, e scrivevo, avevo una certa versatilità per la musica, per il disegno, e cose così. Mio padre mi diceva che è un tipo allegro, tuo padre, un tipo allegrissimo, da bravo catanzarese, e vedeva tutto nero naturalmente, come capita ai calabresi. I calabresi sono o onesti o mascalzoni. Mio padre apparteneva, per mia fortuna e per sua fortuna, alla prima categoria. Tanto è vero, la tristezza non sta camminando insieme, ci stai dicendo, sono tristi qualche volta. Tanto è vero che cosa che ho raccontato nel libro, quando lui, dopo l'avvenire della prefettura, si è trovato durante il nazismo a dover sovrintendere a quelle che erano le competenze amministrative per la provincia di Bolzano, competenze che adesso sono dell'assessore provinciale alle finanze, credo sia questa la definizione, si trovò per le mani, mi pare, 20 o 60 milioni di lire che imboscò, perché ricevette da Milano, dalla Repubblica Sociale Italiana, per Bolzano, avrebbe dovuto girarle all'amministrazione nazista, quella di Andreas Hofer, di Franz Hofer, e lui imboscò quel denaro a suo rischio e pericolo. Naturalmente i tedeschi non erano molto generosi, non perdonavano. Tirò fuori questa storia, questa vicenda, e dopo la guerra, dicendo al prefetto di allora: senti, qua ci sono, non ricordo se 20 o 60 milioni di lire di allora, guardate che è una cosa piuttosto pesante, no? E mi fate avere un minimo riconoscimento. Gli diedero un encomio solenne, o quantomeno un encomio, e 2.000 lire, una cosa così, no, 20.000 lire, non mi ricordo. Ecco, questo era mio padre. Naturalmente adesso se ne vado un pochettino. Nell'autoritratto ci sta. E voleva anche che tu suonassi, però, perché stai lì. Ecco, appunto, ho fatto un video perché io suonassi, e di fatto ho cominciato a suonare il pianoforte per 4 anni di turno di corso al conservatorio. Poi per fortuna mi sono disamorato, perché la mia insegnante aveva chiesto darsi Bach, diceva lei, che a me non piaceva. La mia insegnante, tra parentesi, era la signora Bernasconi, che era moglie di Giannino Carpi, il violinista, e che ad un concorso giovanile, la signora Bernasconi, che era una bella signora. È tutto pieno di belle donne il tuo libro, a cominciare da tua madre, no? Mia madre è una bella donna, e c'è anche come bella donna, c'è anche la bella Mascagni. La Mascagni, il primo amore, non eravate esattamente coetanei? No, non proprio. E se poi c'è il bacio di Agnese, ci sono un po' di. Io avevo 13 anni, no? Però io la signora fatto, uscivo dalla casa di concentramento. Ma io un bambino mi innamorato della signora Mascagni, no? E questa signora Bernasconi, che era la vera signora, la professoressa Bernasconi, ad un concorso nazionale giovanile di pianoforte si era classificata prima, battendo Arturo Benedetti Michelangeli. Che torna nel tuo libro, peraltro, giovanissimo, poi lo ascoltavi. E sono stata una sua grande delusione, perché lui mi voleva portare. Diceva che io sono molto sensibile, non lo so se sono sensibile, comunque lei così mi interpretava, e ho fatto bene a lasciare il pianoforte, mi sono messo a suonare jazz, tanto per dire le cose, insomma. Perché nel frattempo, col passare degli anni, mi è venuta una artrosi alle dita, per le quali se fossi diventato un sanatorio quanto meno un professore mi sarei trovato in forte difficoltà. Ma io penso che sia il caso adesso, riprendiamo dall'inizio, riprendiamo queste immagini che abbiamo già scorso rapidamente mentre parlavamo. La mia divisa con la M, figlio della lupa, chi è la lupa? Chi è la lupa? La lupa è il duce, perché il duce si preoccupa di noi, si cura di noi, noi tutti siamo figli del duce. Allora io mi chiedevo, ragazzina, ma il duce è uomo, la lupa è una femmina, com'è possibile? Però le mie domande, per prudenza, me le tenevo per me. Anche perché lui ammette che fra il duce e il re preferiva il duce, questo uomo forte, non quel baffetto un po' anziano. Esatto, il duce era bello, era maschio, la maschia gioventù, aveva l'elemento. Noi a scuola avevamo i miei insegnanti che mi dava lodevole in cultura fascista, aveva dietro la cattedra il ritratto, la fotografia del duce e del re. Il duce aveva un volto maschio, visto di profilo col mascellone e del mento, e mi piaceva tantissimo, anche perché l'insegnante mi diceva che Malanca Ferrari Vittoria, mi ricordo come cognome, ma tu te lo ricordi anche, te lo sei notato. Beh, vabbè, insomma, ma che cosa mi scrivo? Però so dove trovarlo. Come? Però so dove trovarlo. Ma assolutamente. No, però racconta la questione della divisa, divisa che ci voleva tuo padre a un certo punto. Sì, a mettermi. C'era un momento fondamentale. A mettermi le code. Pensate che forse non era facile mettersi queste code, queste cinghie attorno al petto. Mio padre non sacramentava perché era una persona molto riguardosa, no? Però dentro di sé tirava sicuramente degli accidenti perché non riusciva mai a mettermi. Io tiravo gli accidenti perché avevo questi pantaloni che mi facevano, come si dice, spissa alle cose. Era un tessuto pessimo, era un tessuto di lana tale, che era la lana artificiale che si usava allora, si faceva la lana col latte, era il periodo delle incostanzioni, no? E i calzetti ugualmente verdi di lana, che erano incompleti però, perché vedete quei calzetti, no? Sono veniti i calzetti, no? Ma sotto mancava il calzetto per il tronco, però solo un elastico, un po' come quelli dei calciatori di allora. Esatto, come i giocatori di baseball anche, no? Che hanno, per cui se il calzetto poi saliva, finiva che si vedeva questo bel grigio verde e sotto il calzetto rosso, magari che con la divisa non l'aveva che fare. Che a te piacevano le divise, no? Ammettilo, ti piacevano le divise, ma e hai avuto anche la mamma che a un certo punto voleva convincere la maestra a farti diventare un capetto, no? Anche se in realtà c'era scritto che non avevi la rinuncia al governo. No, io non avevo, quando sono uscito dal servizio militare, quando mi hanno congelato proprio, non mi hanno fatto alpino semplice, niente caporale. Scarsa attitudine al comando. Chi comanda a casa mia? Mia moglie, e ne sono contento. In effetti mia però tua madre era andata quasi a comandarti. Madonna, si usciva tutti insieme marciando dalla scuola, la regina Elena, si passava per il corridoio, si raggiungeva via Rosmini, il capo squadra, che era già il consigliere, gli dava l'attenti, scattava solo attenti, faceva il saluto romano, la maestra faceva il saluto romano e sciogliete le righe, potevamo andare. Era capo squadra e mia madre si sentiva umiliata per il fatto che Davide Monsignore comandasse anche mentre lanciava. E non dalla maestra, ma anche Torino, però era bravo a lei dei voti, roba del genere. Insomma, anche in quella occasione emerse la scarsa attitudine al comando. Andiamo avanti rapidamente per in effetti il discorso delle queste quindi è Davide. Vedete, non riesco a impormi neanche a tutto. Ma puoi darlo direttamente a Giannella, se fa lei. Lo fa lei. Vedete il nastro azzurro, che senti ha ragione. Ma è molto colpita questa cosa. No? Sì. Cioè, ma bastava un dettaglio per farci capire che. Perché in effetti il vestitello, la tonatona verde uguale per tutti, è un parificare, un rendere tutti uguali. uguale, con non differenziare tra ricchi e poveri, però in effetti c'è il colletto stirato, il colletto non stirato, il fiocco stirato e quello non stirato. La cartella poi è un altro elemento distintivo, perché io ho la cartella dei ricchi, perché me l'aveva comprata mio padre ed era di cuoio, mentre i poveri, i bambini poveri, no? E che erano in classe con me, avevano la cartella che passava il regime, ed era una cartella di cartone, simile al cuoio, che si appendeva alle spalle, come capita oggi, sono molte più pratiche. Uno zaino antelitteram, no? Eh? Uno zaino antelitteram. È uno zainetto antelitteram, però la maggiore, le maggiori possibilità venivano date dalla cartella, di queste che portavo io, perché nel dibattito pubblico, quando ci si azzuffava, con questa cartella ci si poteva picchiare in testa, invece con una cartella tipo zaino no, io però non picchiavo in testa e non venivo neanche picchiato, perché me ne stavo sempre in disparte. La prima comunione naturalmente, no, dice Sudanna Agnelli, visto che erano tutti alla marinara, noi restavamo alla marinara alle ore 11 della domenica, perché c'era la messa elegante in Duomo. Si andava tutti in Duomo, i maschietti si vestivano così, questo era molto importante, questo di Milo, perché questo era il fischietto e ci si poteva fischiare dentro, si faceva rumore, e me l'ha andata appunto, se non mi ricordo bene, per la prima comunione o per la cresima. Però c'erano anche delle strane donne che facevano pubblicità, sì, sì, sì, alle loro capacità, non in quelle situazioni. Quello che ha detto molto bene. Alle ore 11 della domenica in Duomo passavano per la passerella, per una passerella, le pensionate della casa di tolleranza di via Cappuccini, che si facevano vedere eleganti, appropriate, invitanti dai signori che accompagnavano le signore e che magari si creavano delle prospettive per i giorni immediatamente successivi. Qua siamo al momento delle pagelle, Faustini, mentre sono le pagelle dell'epoca. Che hai avuto momenti, come dire, momenti più alti, poi un momento un po' più basso, poi potevi fare il piccolo chimico, è divertente che tu stai di no? Sì, ma succedono diverse cose, no? Sì, sì, sì, sì, sì. Torino era bravissimo, era bravissimo a vincere il Partito Nazionale Fascista, Gioventù Italiana del Vittorio, vedete, erano gli anni 39, 40, 41, quindi si era in piena guerra, e l'Italia naturalmente era fascista, ed era un popolo di guerrieri, era un popolo guerriero, così lo definiva Mussolini. Questo è un altro pagello di Frangipane Ettore, figlio di Ugo, perché allora si poteva dire di chi si era figlio, adesso no, perché sennò si corre il rischio di vedere scrivere, una volta scrivevano NN, adesso non è ammesso. Vedete che la bisogna ricordare, visto che prima parlavi di donzelle di facili costumi, sì, che non si scrive più NN grazie alla Merlin, solo che molti si ricordano solo la chiusura delle case di cui hai detto, ma invece lei come parlamentare fu rivoluzionaria e fece la legge per eliminare dalla carta d'identità quell'NN che era una macchia. Lo dico perché si tende a ricordare la Merlin solo per un'altra cosa. 1958, naturalmente, ne parleremo anche perché sono passato anche attraverso quella fase così di passaggio veloce. Votazioni bellissime, confermo, dunque insufficiente, sufficiente, buono o debole? Io ero generalmente lodevole, ma come ho detto prima ero lodevole anche in cultura fascista, poi ero lodevole in lavori domestici e manuali, una cosa che non ho mai capito con la fascista, lavori domestici e manuali. Ma perché Giannella non ti ha mai spiegato, perché lei ti rimane un potere, non ti ha mai fatto capire cosa siano i lavori domestici. E un'altra formula che trovavo ostica era quella, mi suonava un po' strana, dambo i sessi. Dambo i sessi. C'erano i formulari di mobili, cosa che ti risultava utile qualche anno dopo, quando piacevi anche in maschietta, perché in questo libro emerge anche che hai fatto delle conquiste su più fronti. Conquiste? Su più fronti, nel senso che c'erano anche dei maschietti che ti seguivano. Racconta, racconta. Visto che citavano i sessi. Ma l'ha detto veramente tutto, eh. Sì, ho vissuto anche esperienze di quel tipo, e poi ve ne dirò rapidamente. Questa è mia madre, bella signora, e vedete che c'è, sono io, questa è mia sorella Giuliana, alla messa degli 11, con le volpi sulle spalle, perché allora si chiama così, in attuale c'era una produzione di pellicce piuttosto notevole, anche i visori. Come? Adrenon, a Costalovara, sì, sì, c'erano visoni, cincillà, perfino arrendini, volpi e cose del genere, e facevano le mostre qui a Bolzano. A cantiere la messa delle ore 11, come ho detto prima, mentre questo è il giorno beato, felice, che non fate, non della vittoria dell'Italia sulla Spagna, bensì della dichiarazione di guerra. Parlo intravedente dei tram, siamo in piazza Vittorio Emanuele III, oggi Walter, dicono il giornale della provincia di Benevento, qua è il ritratto di Mussolini con le mette in testa, no? Quello mi piaceva tanto a me, qui un altro le mette in testa, dicono che ci fossero 40.000 persone, qui vedete anche il simbolo, il logo della lancia, si votavano nelle grandi appartenenze, si votavano gli stabilimenti, venivano tutti in piazza Vittorio Emanuele III, ad ascoltare la parola di luce. Spintaneamente si dice, no? Spintaneamente. Spintaneamente. Spintaneamente. Spintaneamente. Nuovo mi piace. Te lo vedo. Grande entusiasmo andato alla ragazza e scoppia la guerra. Ecco, questo è uno dei risultati della guerra, le carte anonarie. Le carte anonarie. Questa è la carta anonaria alimentare. Per genere di minestra, perché tutto si comperava con la carta di latte, di pane, la carne, di genere di minestra era l'unica, era la pasta. Ciascuno aveva il diritto al supplemento da genere da minestra, 25 giugno, 26 giugno, 27 giugno. Ogni persona aveva, era destinataria di una carta anonaria, e quando il Torino, che ero io, andava a comprare il latte in via Rosmini, ci andava con un numero congruo di questi tagliandini che doveva dare alla lattaia, fare la taglia in cambio, gli dava la porzione e solo quella che gli competeva a lui, al suo papà, insomma, e non si poteva dare oltre. Quando io dico di questi del fatto che parliamo come si viveva una volta, parliamo dei giovani, i giovani poi si trovano, non voglio fare la parte del babbo, no? Che lavorato il tempo di sacchi altro nella bella una volta, non è proprio così, però una volta in effetti era un pochettino più dura, perché oggi i ragazzi hanno tutto a portata di mano, non voglio adesso perdere i discorsi di questo tipo, ma il pane all'epoca era solo quel pane, non un altro pane con l'olivetta, con l'olio, pane intrecciato, ma no, era quello e basta. Ho mangiato, che caso di dire, ho mangiato quella minestra, ho saltato la finestra. Ma tu mangiai molta polenta, fai capire, no? Alla fine mangiavo anche questo periodo polentoso, chiamiamolo. Io ero polentoso perché mia moglie, a mia madre, perché a mia madre piaceva giocare a tavola, e piaceva perdere soldi in realtà con i tuoi amici, stando alla lettura, no? Perché le piaceva giocare a poker, ma non vinceva poker. Con me e i miei amici, che prima di fare la settata classica delle 17 in via Museo, venivano a casa mia, la riempivano di fumo, e poi dovevamo aprire le finestre prima che arrivasse mio padre. e giocava a poker e regolarmente perdeva. Mia madre era l'unica che pagava sull'unghia, perché tutti gli altri, gli amici, invece andavano accompagnare vittorie e sconfitte. Lei pagava sull'unghia e così la sera io generalmente cenavo con polenta e caffè latte. A questo tempo del liceo, polenta e caffè latte. Non aveva soldi. Io avevo un nonno ricco in Germania, ma però erano arrivati i russi. Era stato ricco, ma poi alla fine ci troveravamo noi che dovevamo andare loro e le medicine. Ha incominciato persino questi marchi che dovevano valere chissà quanto. Esatto, è cominciato con la storia dei marchi. Pensate che mia madre è venuta in Italia perché c'era andata mio nonno, che aveva una giardineria fuori tra Dresda e Lipsia. Che giardineria dice poco rispetto all'impresa. Era una cosa importante, no? E siccome Marco era debolissimo nell'anno 30-31 e la lira era fortissima, allora lui pensò, mio nonno Max, di mandare mia madre e sua figlia a Bolzano a impiegarsi qua in una giardineria per vedere come andava il mercato. Mia madre è venuta qua, si è impiegata presso un fiolaio dei portici, ha conosciuto mio padre al ristorante Papagallo, quale faceva prima c'è lui, si è innamorata, si è sposata, mia madre è rimasta qua e la giardineria è rimasta fuori e mio nonno non l'ha trasferita qua, anche perché nel frattempo ha avuto la fortuna mio nonno di vedere rivalutati i suoi marchi, perché era venuto al potere Hitler. E quindi il Marco incominciò allora la sua crescita, per poi crollare con la guerra, e c'è un'altra storia da raccontare, ma non ve la racconto. Da incominciare in questo caso, questo che è una cornice. Esatto, questo è il continuo comandamento su Bolzano. Vedete, questi sono delle fortezze volanti su Bolzano, quando i motori, questo è il virgolo, questo è il coso, questo è Tavola, qui sotto corre il risalto, più o meno questo ci sono io al colle, i primi comandamenti che mi succede al colle, 2 settembre, poi il 43, poi il 2 dicembre del 43, poi ancora, poi il 25 dicembre del 43, sempre al colle mi trovavo ed era il giorno di Natale. Andiamo avanti per farvi vedere altre immagini di quel periodo, le bombe che cadono. Questa è una fotografia fatta naturalmente da un aereo americano. E qui ritrovano un po' degli altri tuoi libri, no? Bombe su Bolzano, ricordo, ritrovano un po' dei tuoi libri. Altri miei libri, Bombe su Bolzano, il Seconda Guerra Mondiale, Fame a Bolzano, Prima Guerra Mondiale, grazie di avermi aperto l'occasione. Consigli per gli acquisti. Consigli per gli acquisti, esatto. E questo è un memoria di balletto, non tornare a tirare nuovamente fuori la storia del pilota americano che ormai la sanno tutti. Allora non me la racconto, ma vi dico soltanto che questo, che si chiamava John A. Byerly, era un ufficiale comandante pilota americano. Guarda, mi stai raccontando, te lo dico perché. No, perché dovrei raccontarmi anche dei miei incontri. Che comandò il comandamento del giorno di Natale del 1943 su Bolzano, comandamento al quale presero parte 40 fortezze volanti, che scaricarono 300 bombe, il suo aereo fu colpito e lui atterrò col paracadute al colle, ove io mi trovavo. Chiudo la parentesi sul colonnello americano, con me tra l'altro forse entrato in contatto non direttamente con lui perché nel frattempo è morto, ma con i figli. E questa è la famiglia Frangipane, questo è l'Exodus. Qui dopo il bombardamento sul colle ce ne venimo via, questa è mia madre. Sempre grandissima anche in momenti come questi. Aveva la pelliccia, perché aveva il nonno ricco, il nonno tedesco. Il nonno italiano, invece, tornando al discorso di calabresi di prima, era un nonno calabrese e onestissimo, no? Che non voleva avere. Mio nonno quando mi accettò di scegliere per la mia università, dice mio padre, lui gli chiede cosa vuoi fare, ah, non lo so papà, faccio legge, non so, non avevo nessuna predisposizione. Allora mio padre mi disse, no, legge no, perché se fai l'avvocato ti devi trovare a confrontarti con tutti i mascalzoni. Mia madre mi dice, no, legge neanche parlarne, perché se fai legge tutti gli stupidi fanno legge. E per quello ho provato a fare il piccolo chimico per un anno. Ho fatto il piccolo chimico per un anno, non mi sono reso conto che per me la chimica proprio non andava. Allora ho mollato, io ho mollato il primo fonte alla chimica e mi sono messo a studiare legge. Questa è mia madre, questo sono io, questa è mia sorella Giuliana, questa è mia sorella Maria Grazia, piccolina, che ha il cappellino rosso, che prima avevo indossato io, poi l'ha indossato Giuliana, poi è finito sulla testa sua, e tutti insieme dal colle, con questo contadino che trascina, che comanda, diciamo, questi cavalli che trascinano il carro con i nostri amici, dal colle se ne va. Allora, ponente, dove io? Eccomi qua. Tu esordio, come chiede che? Il mio esordio in un'altra vita, quella di cui ho detto prima. Ecco, qui sono tristissimo, mi fa la fotografia un sacerdote che si è innamorato di me. E quando dico innamorato, dico innamorato. Avevo scoperto. Avevo scoperto che io avevo imparato l'analisi grammaticale e logica perché c'era un giudice, facevo la quinta elementare, quarta e quinta elementare, però questo giudice che era di napoletano, che era sfondato in un opponente, visto che mi conosceva e mi apprezzava, mi aveva insegnato mi faceva, me lo ricordo ancora con commozione, mi faceva fare l'analisi del periodo addirittura delle Veglie di Neri di Renato Fuccini, oppure mi insegnava il Sant'Ambrogio di Giuseppe Giusti. Quando Sebastian lo segue, dice, ma a questo punto devo intervenire io, mi seguo il latino. Andò da mia madre, che da evangelica, si era trasformata in fervente cattolica per poter sposare il cattolicissimo mio padre, e mia madre ben felice di consegnargli a Torino, che sapeva così bene l'analisi grammaticale logica che l'ha consegnato, mi ha insegnato un po' di latino, anzi molto latino per la verità, era un brevetto di latino, e mi metteva le mani addosso e mi baciava. Però tu sapevi come difenderti, no? Fai capire che io, in un modo o nell'altro, sei sempre riuscito a difenderti. Io mi sono riuscito a volte fuggendo, a volte nascondendoti. Stavo lì, ma insomma, appunto, allora mi si ritraeva, e naturalmente non ho mai avuto il coraggio di dirlo a mia moglie, a mia madre, nuovamente dico. E glielo ho detto dopo, quando mio fratello è stato mandato da mia madre ad un istituto religioso per fare le scuole superiori, e mi sono opposto perché dico preti no, e mio padre perché mi è capitato questo altro, non si devono dire neanche queste cose, sei un anticristo. Allora dico, vabbè, ce l'ha mandato, dopodiché con mio fratello regolarmente capitato la stessa cosa con un altro sacerdote. Questo, allora, mi sono rivolto, quando il vescovo va in tempi abbastanza recenti e ha detto raccontatemi queste vicende di pedofilia, che noi dobbiamo intervenire, allora scrisse il vescovo, che era allora Enter, il quale così mi fece rispondere dal vicario generale Josef Matzner, presero conoscenza, atto di questo fatto, mi raccontava che era morto 14 anni fa questo sacerdote, che peraltro era una persona anche simpatica, solo che riusciamo a perdere. Andiamo avanti, le canzoni. Le canzoni, questo ve la devo raccontare, perché una delle cose più belle di quel periodo secondo me, del periodo fascista sono le canzoni che io cantavo, un po' come Barilla e come Figlio della Lupa, prima Figlio della Lupa, poi Barilla. E poi quelle guerresche, naturalmente, no? Poi cantavo le canzonette con la mia Valora, la donna di servizio. Io, la mia donna di servizio, mia, della famiglia, era Annetta, di Mezzo Lombardo, che era una donnicella con la quale mi ritiravo in cucina e cantavamo insieme. Lei faceva, io facevo la prima voce e lei la seconda. E cantavamo le canzoni della patria, tra l'altro, che io imparavo tra l'altro anche a scuola, e poi altre canzonette. Sfiorano, sono gli uccisi, sfiorano le onde nere nella fitta oscurità, dalle torrette fiere ogni sguardo attento sta. Tacciti ed invisibili passano i sonnergi, cuori e cuori da saltatori contro l'immensità. Si va per vasto mar, ridendo in faccia monna morte dal destino, colpir e seppellir ogni nemico che si incontra sul cammino. È così che vive il marinare, il profondo cuore del sonante mar, del nemico e dell'avversità se ne fischia, perché sa che vincerà. Me ne ricordo ancora, che le cantavo, gli arrivo che mi sono molto pagato. E poi cosa del subentro, cosa perché bravo, c'è troppo, un po' di... Un po' di acqua ti... Ma io sono sommergibile in mezzo schema. Poi c'era quell'altra bella canzone che era Fuoco di Vesta, che fuor dal tempio rompi con ali e fiamme, la giovinezza va. Fiaccole ardenti sull'ara e sulle tombe, questa è la speranza della volta. Duce, duce, chi non vorrà morire, il giuramento chi mai rinnegherà, chi ha dovuto giurare fedeltà a Duce, snuda la spada, quando tu la vuoi, dalle ardenti al vento tutti verremo a te. E va, la vita va. Sento che il ritornello richiama le luci che si uniscono. Visto che parli di musica, allora non si dicevano Martini no parti, ma no grammofono no parti. Nel senso che non entrando in grammofono in casa tua non si potevano organizzare questi giochi. No, non si facevano. Perché senza grammofono. Ma pensa che a casa mia la radio è entrata quando è morto mio padre, quando è morta il mio nonno, perché avevo una radio che gli ha capitato. Perché allora a casa mia ci doveva essere una radio, ma è una cosa da stupidi. Infatti quando poi viene mio padre, io ho comprato alla famiglia un televisore, mio padre non voleva, perché anche la radio non è ritanata, la televisione non è ritanata. Però diventò teledipendente, tu dici. È diventato poi videodipendente mio padre, e non perdeva un l'ascia raddoppia. E comunque vi volevo far vedere qualche altra cosa sui bombardamenti. Questo qua è una fortezza volante con tutti i colpi della FLAC lì a comando, che esplodono contro di lui, i portelloni delle bombe aperte, e qui vedete perché si chiamavano fortezze volanti, perché erano dei bombardieri autosufficienti, nel senso che non abbisognavano di copertura da parte della caccia, arrivando da troppo lontano, ieri non potevano da caccia che hanno un serbatoio limitato, non potevano accompagnarli e difenderli dalla caccia nemica, e allora erano dotati di mitragliatrici sul dorso, mitragliatrici sulla prua, mitragliatrici sulla poppa, ce n'erano anche sotto, e erano quindi delle unità assolutamente autosufficienti. Li vedevo volare quando erano Nova Ponente, in particolare per noi c'è una mia amica di Nova Ponente, che era figlia del segretario comunale di Nova Ponente, il ragionier Bortolotti, il quale era un acceso antifascista, e quello di padre, il figlio del tuo prima, era un antifascista. e loro ascoltavano per Radio Onda. E io che avevo 9-10 anni, ascoltavo anch'io e stavo visto tutti quei messaggi stranissimi di codice. E quando si parlavano, mi ricordo una volta Bortolotti che avete saputo cosa ha detto Bagnasciuga, che era Mussolini, perché Mussolini aveva detto che gli anglo-americani non sarebbero arrivati neanche al Bagnasciuga italiano in Sicilia, no? Ci arrivava tanto al Bagnasciuga, che forse sono apprezzato per parenti, no? Però avevano soprannominato Bagnasciuga Bortolotti. Andiamo avanti. E questo è un aereo che ha una sua storia, perché questa è una fortezza volante, mitragliatrice, qua sotto non si vedono, qua dietro si vedono. E questo 6B è stato, ha fatto parte di quella ultima parte di bombardamenti che avvennero qui nel 1945, quando gli anglo-americani, soprattutto americani, martellavano incessantemente la linea ferroviaria del Brennero. Più tanto a Bolzano, perché a Bolzano era un problema riuscire a raggiungere il ponte e la ferrovia, perché venivano su dalla Val d'Adige e poi dovevano infilare le bombe subito oltre il virgola, e perciò che hanno sbagliato tanto, hanno raso solo mezza città. Bolzano è stata distrutta dalle bombe, o quanto meno interessata dalle bombe, per il 62% dei suoi edifici, e questi sono dati ufficiali del Genio Civile di allora. 350 e passa case rase al suolo, 500 e passa case quasi completamente distrutte, oltre 1300 case comunque danneggiate. E allora queste ondate di fortezze volanti l'ho anche scritto sul giornale Alto Adige, sicuramente tu hai letto. Come è noto. Ecco, nella mia rubrica portata scomparsa, gentilmente ospitata dall'Alto Adige per l'appunto. Il giornale che ti rifiutò quasi i primi disegni, stando al racconto, più che altro perché ti pagava e preferito andare nell'altro, è un'altra storia. Però nel libro c'è. Nel libro c'è. Ecco, e allora hanno cominciato a battellare a Campo di Trenzio, dove il discorso era più facile, perché è facile prendere e beccare la ferrovia anche perché c'erano dei ponti, e quindi si concentrarono lì le bombe degli americani, la contraerea della FLAC, e questo è uno dei non pochi aerei che sono stati colpiti e che è stato abbattuto proprio su Campo di Trenzio, precipitato sulle montagne circostanti. Tra l'altro c'è stato anche un aereo colpito a Campo di Trenzio che è andato a precipitare in Val di Sole, pensate un po'. Siamo sulla fine della mia chiacchierata, questa che piazza è? Piazza? Questa è la mostra. No! Non riconoscete questa piazza? Piazza Domenicani. Piazza Domenicani. Questo è il Duomo. Questo è il Palazzo dei Generali. Qui c'è questa Piazza Vasca, la volta di polvere e fumo. Qua c'è il negozio di Colini, ricordate? Qua c'è una buca fatta dalla bomba. Qui c'è la targa, Bolzano 6355, mi fanno roba del genere, questo è un pompiere, stanno spegnendo gli incendi, stanno intervenendo per i primi soccorsi. Qua siamo in una chiesa. Che chiesa è? Franciscani, dove io ho sentito messa negli anni dalle 45 al 48-49. Sono entrato in contatto con i francescani, bravissima gente, non ho nulla da dire stavolta. Ho sentito messa lì, quando ancora la chiesa era distrutta, nella chiesa che si trova tuttora nel chiostro dei domenicani, poi ci hanno portato nell'abside della chiesa, dividendo l'abside dal resto della chiesa, che è crollato come vedete, qua si sta recuperando un ferito. Questa è una suora con la sua brava borsa, con materiale per soccorso. Primo soccorso. Questo avete già capite che cos'è. Questo è l'uomo, come era dopo i bombardamenti. Questo qua è il tetto della chiesetta, della alte farche la chiesa di Colonia, che è stata data al suolo praticamente. Vi voglio far vedere questa foto per un particolare. Notate questa struttura, sapete che cos'è? È il secondo campanile di Bolzano, che è del mondo, che non è stato mai terminato. Qua ce n'è uno e qua c'era il secondo campanile, che non è, per mancanza di soldi, 1500-16 secolo, non è stato terminato. Chiedere dove andare. Questa è la linea tranviaria che portava a Laives, 1908, se mi ricordo. E mi ricordo che io avevo qui di fronte il liceo classico, e sul giornale un giorno lessi, sul giornale che era già andato a Laives, lessi che queste rovine non ce ne facevano più niente, potremmo abbatterne tutte e fare un bel parcheggio. Il tuo giornale che non era ancora tuo, e che per fortuna non andò avanti con quel progetto. No. Era quasi più semplice che un aeroporto. Esatto. E questa è la scuola Cairoli, oggi Goethe. Qui in un bombardamento vuol dire no, solo in colpo 40 e una quarantina di soldati tedeschi. Tra l'altro i morti per bombardamento a Bolzano furono 250, più i militari tedeschi che non entravano in queste graduatorie. Questo bombardamento visto da piazza 4 novembre, cioè praticamente dal corpo d'armata. Qua c'è il colle, facilmente quando io ero qua su. Qua c'è dietro, c'è la stazione di Biblio, tutto questo, se no troverete le bombe che esplodono, immaginatevi il rumore. Quindi immaginate, io ricordo il rumore delle bombe, ma prima ancora quello degli aerei, si annunciavano con questo suono pesante, continuo, terrorizzato, e cresceva, e si scappava, e si correva nelle cantine, al colle della cantina del claustro, ricordando bombardarono, e tremava tutto, e la gente urlava, e più avrebbe voluto urlare, perché ho capito una cosa, che urlavano per non sentire le bombe. Tu gridi, in turi di orecchi, la trezza. Teneva le orecchie chiuse, la bocca spalancata e urlava, non voleva sentire. Tutti a urlare, fate l'uso del turismo nel film, perché si pregava in tedesco. E in quell'occasione un padre francescano, a non credenti, infatti la scoprano talmente vicini, sembrava che fosse stata in tutto parario, e a noi dovesse la soluzione in articolo morro bis. E questo è chi l'ha conosciuto? È Don Nicola. Conosciuto Don Nicola. Una carissima e stupenda persona, Don Giovanni Nicoli, se ne ricordo di Stesico, era trentino. Don Giovanni Nicoli, cappellano del carcere, che si deve moltissimo da fare per salvare condannati a morte. Come scritto in un altro libro di Frangipane. Come Frangipane ha scritto in un altro suo libro, ma no, questa volta mi ricordo l'episodio, perché l'episodio che dice tanto è bello, no? E lui si deve molto, dunque più avanzando viene condannato a morte dal tribunale delle SS che si trovava in Villa Brigi all'angolo di Diaz, davanti a quello che si chiama Chef Regis, una cosa del genere. Quel condominio è stato costruito su Villa Brigi. Villa Brigi là viene condannati a morte, renitenti alla leva, partigiani e cose del genere. E Don Nicola è riuscito tramite conoscenze, cose varie, addirittura è entrato nelle grazie del pubblico ministero delle SS. Città mi pare schermato, comunque forse c'è anche la fotografia, no? Non lo so. forse avrei portato questa storia in altro libro, il quale si aveva da fare perché la decisione di grazia poteva venire soltanto dal Gauleiter Franz Hofer. E questo pubblico ministero gli segnalava quando Franz Hofer non c'era la sentenza Bolzano, e allora Don Nicola interveniva presso il vice di Andrea Hofer, che invece era più lungano. E voleva probabilmente anche precostituirsi un alibi per un futuro, cosa che veniva anche sicuramente da questo pubblico ministero, insomma, perché questi sono due badiotti renitenti alla Lega, che sono stati salvati da morte da Don Michele e Nicoli. Mi hanno chiesto una volta dove li fucilavano alla caserma Mignone o al poligono di Terrassegna di San Maurizio, e il rituale voleva che gli si, una volta legati al palo e poi fucilati, questi cadaveri li si mettessero nelle bare, sul cui fondo si era sparso un alto strato di segatura che assorbisse il sangue, in modo evidente che il sangue non passasse attraverso le tavole della bara e sporcasse magari le divise dei soldati che le trasportavano. Frangipani, poi scout, ecco. Qua siamo nel 1953, liceo classico. Stalin è morto, si riconosce anche Ferretti in questa foto. Questo è Ferretti, il primo della classe. Primi eravamo lui, Ettore, Loner, Arnaldo Loner e Nino Angelucci. Ci disputavamo questo onore. Il maresciallo Stalin è morto, 1953. Questa fontanella ha un significato, perché questo è il... Sì, è all'inizio di parte del Talvera, e questo è un San Francesco dello scultore sudtirolese Ignaz Gablone, e questo San Francesco ha preso il posto di una statua di San Giovanni Nepomuceno che era stata abbattuta dai bombardamenti. Questa è la tale di tolleranza, se lo parla raccontato qualche cosa. E questo sono io vestito da militare dal 1959 al 61, un anno e mezzo di vita, e questa è la RAI dove ho iniziato la mia attività. Grazie a Gianni Bianco che ti aveva segnalato che c'era un posto a collaboratore. Tuo padre sognava che ci sia l'amministrativo, sapevi fare il datilografo e ti sei trovato a fare l'inviato speciale. Mio padre non voleva che fosse il giornalista, perché vedeva i giornalisti di questa sede RAI che andavano nei bar vicini a fraternare i bicchieri uno dopo l'altro. Era una tradizione di comprare le scatole da parte. C'era questo pranzo del vicino, allora mio padre non voleva che mi alcolizzassi e si è opposto alla mia soluzione, ci sia l'amministrativa, ma io mai non ho preso questa strada, anche come citava adesso Alberto, perché come sono entrato? Sapevi fare il datilografo, insomma, eri bravo con la tastiera di allora. Insomma, diciamo una cosa, che mio padre mi aveva insegnato, mi aveva facilitato perché imparassi a battere la macchina, cosa che interessava naturalmente la categoria, che mi aveva fatto avere lezioni in inglese da un suo impiegato, e anche questo è tornato utile, ma soprattutto perché in quei famosi incontri di poker a casa mia, uno che vinceva sempre era Gianni Bianco, non so se chi di voi l'ha conosciuto, che era scomparso purtroppo di recente, una persona a cui devo con la mia attività da 30 giorni. Lui ti ha lasciato il posto, non solo, ma l'ha anche indicato. Davide l'ha preso come collaboratore con altre professioni, con qualche prospettiva in più di figure. E allora ha detto: senti, mi dicono, mi chiedono, dai, se conosco giovani studenti di belle speranze e di qualche capacità che possa prendere il mio posto, presentati da Tullio Ormai. Che ne capito, perché ci penso tre volte, perché non ero convinto. La prima volta sono andato, mi sono presentato e c'era una signora molto graziosa, la parte del lettore, con tono del supponente, non c'è. Trovi domani, allora sono tornato lì domani, la stessa signora supponente molto graziosa mi ha detto: ma c'è, trovi domani. Allora mi sono detto: ci vado ancora una volta e se mi sento rispondere così non ci torno più. Ci sono andato, sono entrato in un'area e la signora molto supponente molto graziosa nei miei confronti si è manifestata via via più dolce. Questa è la RAI di allora. Queste sono le macchine della RAI. Qui sono nato io e i miei fratelli. Questa è la casa d'angolo tra la mia casa di risparmio e mia fondata da Vinci. E questi sono gli inizi di questa storia. Vi ringrazio. Ci sono stato qualche anno fa e dunque mi ricordo in linea Catanzaro disastrata, sporca, malmessa eccetera, ci sono tornato qualche anno fa con in vacanza con mia moglie e amici e eravamo là vicino io sono andato perché avevo nuovo e sono andato da solo con mia sorella a Catanzaro, ho trovato una bella cittadina e quest'anno ci tornerò perché è una cittadina pulita, a posto, ci sarebbe qualcuno, non ci aspetterebbe, sarebbe molto favorevolmente. E vai a cercare qualche traccia? Sì, sono andato e ci tornerò, ma senza il coraggio di bussare a quella porta, alla casa dei miei nonni, una casa meravigliosa nel vecchio quartiere Stella, che dà sul Musofalo, pensate, anche no, sulla Fiumarella, Catanzaro è sul promontorio, i due fiumi si chiamano Fiumarella e Musofalo, soltanto di greco, di magna greci. Ero proprio sul bordo, e una casa vecchissima, e la cosa che mi ha impressionato, che ci penso tuttora, è che aveva il soffitto in tela, il soffitto bianco era di tela, non era di mattone. E sopra c'erano i mattoni, per cui le tevere, per cui quando pioveva gocciolava sulla tela e quindi si formava tutta una serie di nuvole, di figure, stavi a guardare, a fantasticare chi è quello, chi è quell'altro. Insomma, il prossimo libro è scritto. E qua somigliava qualche modo. C'è Ceramento, perché la zona era molto forte Ceramento, c'era sotto il fiume lo lettero. I vetri tremavano perché erano tutti insieme con lo spago si deve all'incirca. Tremavano i vetri e il vento che passava anche attraverso le tevere mi alzava e abbassava il soffitto. Questa è la casa dei miei nonni, i quali peraltro, cioè, mio nonno si chiamava Domenico, era molto religioso. Mia nonna si chiamava Emma, era molto religiosa, aveva un nonno il senso del commercio. Altro che il mio nonno tedesco, aveva il senso del commercio. Avevano un villino con una proprietà, vinificavano a Ponte Grande, che è proprio dall'altra parte del fiume di Catanzaro, e quando scoppiò la guerra vendettero tutto e investirono in buoni del tesoro. Questo era mio nonno, professore. Era il classico, era un calabrese onesto, ma anche fuori moda. Grazie, prego. Sì. Una domanda, una curiosità più che altro. visto che sei un personaggio che ha avuto successo dappertutto dove ti sei messo, e se parliamo di sport poi è stato qualcosa di mondiale veramente, non sei mai stato tentato o proposto per entrare in quel brutto mestiere che è la politica? Mai fatto politica. Mio padre mi aveva detto che la politica è una cosa da scuola. E ci aveva cercato. Ma non ti hanno mai cercato? No. Una sola volta un mio amico che è presente in questa sala e che non cito mi iscrisse come candidato di Forza Italia, lista Berlusconi naturalmente, per le comunali di Bolzano. Ho fatto una cazzatona, ma cancellato 5 minuti. Considerate che è stato anche 40 giorni a Rotary, dopo 40 giorni aveva capito che anche quello non faceva più. È l'unica volta che sei stato presidente per 40 giorni. L'unica volta che avevo proposto per un posto. Non ho mai voluto fare per esempio il capo redattore, sono andato in generale perché mi avevano sempre di fare il capo redattore, no? E cosa che non volevo assolutamente, perché a me piaceva essere indipendente, l'inviato speciale si gestisce da solo, girando il mondo da solo, è una cosa fantastica, no? Mentre se sei il capo redattore, se sei il capo, se sei incasellato, se sei il direttore di un giornale, ti trovi costretto entro un organigramma, e non finisci per non fare più il giornalista. Basta uscire e andare a presentare un libro di Frangipane. Non è un altro. Grazie, basta.